cambia il cuore ai mille battiti. Io chiudo gli occhi per non ti vedere. Io quando amore moro in te, in quel momento torno a vivere. E chiudo gli occhi per non ti vedere. E dentro gli occhi vedo te. Darei la vita a te sulle pongi la bocca e la tua voce al cuore mi va. T'amo, se t'amo so tremar per te sulle pongi la bocca. Io chiudo gli occhi per non ti vedere. Ami, e chi sarà e chi dirà sulle pongi la bocca senza risposte. Nascosta tu stai, ami, viver così, vivere qui sulle pongi la bocca, l'acqua che scorre è l'amore che va. Così ti godo, amore mio, non voglio più sentirmi libero e le mie mani incateno su te. Fior di granato, amore mio. Mia dentro la tua sulle pongi la bocca, l'acqua che scorre è l'amore che va. T'amo, dove tu sei io sarò sulle pongi la bocca. Io chiudo gli occhi per non ti vedere. Canto di renendintra la dalla sulle pongi la bocca. Tu tu tu tu ta ra ta ta. T'amo, se vedo te moro di te sulle pongi la bocca, con gli occhi chiusi, così ti vedo.